Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana, chiaramente giornata festiva ma con borse aperte e con notizie a caratterizzare anche questa giornata economico-finanziaria. Tra l'altro vi anticipo che alle 18:07 ci sarà poi un piccolo speciale di Radio 24 sulla situazione difficilissima sulla A4, ma non solo, sulla rete autostradale, in particolar modo sulla A4 nella tratta Verona-Vicenza. Quindi noi poi ripartiremo alle 18:15. Detto questo, di cosa ci occupiamo oggi? Beh, ci occupiamo dei dati auto, che ricordava anche il nostro GR. Le anticipazioni, domani arriveranno le conferme, sono drammatiche sia complessivamente ma anche e soprattutto per il gruppo Fiat, quasi 40% di calo nelle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Partiremo invece con una buona notizia: si è chiuso ieri ufficialmente l'Expo di Shanghai. La buona notizia è il successo che ha incontrato, al di là di ogni retorica, sapete che non appartiene a questo programma, il padiglione italiano, che si colloca tra i primi 5, forse il secondo, forse il terzo posto tra quelli visitati. E adesso il testimone e la bandiera del Bureau International des Expositions sventola sopra Palazzo Marino. Di questo parleremo, anche per capire quanto vero siano alcune polemiche, rilievi apparsi sui giornali di un'assenza pesante di ministri italiani, del governo italiano e anche del Presidente del Consiglio, mentre altri paesi, penso alla Francia, alla Germania e alla Spagna, hanno avuto buona parte del governo che è passato a visitare i loro padiglioni, anche perché insomma, quando si va a Shanghai, si va in Cina, di solito il COTE prevede un insieme di accordi bilaterali business to business. La borsa oggi male, male Milano, devo dire, il resto va sostanzialmente o neutro o leggermente negativo. Penso a Londra più 0,40, Parigi più 0,1, Francoforte meno 0,1, l'America più 0,4, male Milano meno 1,3%, ma per i titoli bancari soprattutto. In primo luogo Fondiaria Assai, dopo tutti gli entusiasmi che l'ingresso di Gruppo Ma ha creato sul titolo, oggi il titolo perde il 5,1%. Gruppo Ma è entrato in Premafin, la controllante, la holding finanziaria che controlla Fondiaria Assai, però perde il 5,1% a 8,1 euro per azione. Male però anche tutte le altre banche: Unicredito meno 3,5%, Banco Popolare meno 2,4%, Ubibanca meno 2,1% come la Popolare di Milano, Unipol meno 2,1% come Generali, Mediobanca meno 1,80%, Intesa San Paolo meno 1,70%. Sul caso specifico di Fondiaria Assai parleremo tra poco, ma insomma il mercato si interroga sulla fattibilità dell'operazione, perché è condizionata tra l'altro a un'esenzione dalla necessità di fare l'offerta pubblica d'acquisto. Ne parliamo più avanti. La Consob ha acceso un faro, Consob che domani festeggia, si fa per dire, i 4 mesi senza presidente della Consob. Evidentemente va bene così. Ancora sui temi di oggi parleremo, dicevo, di auto, di Expo, ma anche di scenari di investimento. Il numero uno del principale fondo, adesso non so se dovrebbe essere il principale in assoluto, il più grosso fondo di private equity, come si chiamano, cioè quelli che investono decine di miliardi per comprarsi pezzi di società. Mi riferisco a BlackRock, intervistato da noi sugli scenari finanziari. E poi ancora ascolteremo alcune cose su questo concorso dei notai che insomma, fa cascare le braccia quello che è successo a Roma con il tema truccato, il tema dato, la prova scritta data che era stata data precedentemente in una citazione a Roma. Insomma, anche questo è un tema che purtroppo dice lunga sulle professioni. Non vogliamo attaccare i notai, però insomma, qualche critica all'esistenza degli ordini professionali l'abbiamo fatta e ce la teniamo tutta come dubbio. Anche come dichiarazione di Dominique Strauss-Kahn, daremo un piccolo spazio anche a questo, perché ha dato una stima sui possibili disoccupati che obiettivamente ci sembra un po' forte. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. E chiaramente buone vacanze a tutti quelli che sono in vacanza. Attenzione chi deve viaggiare sulla A4 nel tratto Vicenza Verona, allora, dicevamo delle altre notizie. Beh, le materie prime si sono mosse, non tanto il petrolio che è $82,4 al barile, ma si è mosso l'oro di nuovo sopra i $1,360, trascinando con sé tutte le materie prime, cioè i prezzi dei metalli soprattutto, e l'argento ha toccato i massimi da 30 anni a questa parte. Buone notizie invece arrivano dalla IATA, che è l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, che dice che sostanzialmente l'umore prevalente tra la maggior parte delle compagnie aeree, che devono ancora diffondere i dati trimestrali, quindi bilancio trimestrale, suggerisce una diffusa ripresa negli utili. Soprattutto la stagione in America è andata meglio del previsto, con utili che si avvicinano ai livelli del 2007, e anche comunque i risultati delle compagnie aeree europee sembrerebbero incoraggianti. Sì, vedo alcuni messaggi. Beh, sicuramente il traffico aereo, l'andamento delle compagnie aeree è un indicatore della ripresa e di un'intensità della ripresa, sono indicatori indiretti, ce ne sono tanti. L'utilizzo del trasporto merci, cioè le merci trasportate via nave piuttosto che via camion, e anche il trasporto aereo. Poi fra un po' vedremo anche il famoso Dry Baltic Index, che molti di voi ci chiedono con regolarità. Andiamo avanti con le altre notizie invece. Deboli i redditi in America, per la prima volta rallentano i consumi degli americani mentre si registra un ribasso, cioè la prima volta il ribasso dei redditi da oltre un anno. Questo è il dato uscito oggi, anche se la vendita di nuove case in America è andata leggermente meglio delle attese. Però poi è arrivata come una gelata la dichiarazione di Dominique Strauss-Kahn, che non è una persona qualunque, è il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Ha detto infatti Dominique Strauss-Kahn, intervenendo al Forum Internazionale dello Sviluppo Umano, il mondo ha perso 30 milioni di posti di lavoro, e questo, ahimè, era una notizia che avevamo, a causa della crisi mondiale, e le previsioni per i prossimi anni sono di 400 milioni di posti di lavoro in meno. 400 milioni? Allora, visto che piove, che la gente è bloccata sulla 4, che è anche il primo di novembre, gufo per Strauss-Kahn. Vabbè, speriamo che sia stata una svista, forse insomma così, dovuto al caldo del sud del Marocco, ad Agadir o a qualcos'altro nel Marocco, perché non si capisce da dove arrivi questa stima su 400 milioni di nuovi disoccupati, anche perché dirla così non aiuta. Andiamo avanti invece con l'Unione Europea, perché in Irlanda il premio a quanto rende in sostanza l'obbligazione irlandese, sapete che più rende un'obbligazione e più è a rischio quel paese, e soprattutto la differenza tra quanto rende l'obbligazione irlandese e quanto rende l'equivalente obbligazione tedesca, è volato, ahimè, a un nuovo record di 445 punti base, cioè il 4,45% come differenza nel rendimento. Ancora sulla politica internazionale, vorrei farvi ascoltare il passaggio dedicato all'economia e in particolar modo alle quote rosa, come le chiameremmo noi. Oggi non riusciamo a fare il tema, prometto che ci torneremo. Dicevo, il passaggio fatto da Dilma Rousseff, che nel suo primo discorso da neo presidente eletto del Brasile, che ha sottolineato e rivendicato l'importanza del fatto di essere il primo capo di Stato donna di una nazione sudamericana. Primeiro eu queria agradecer Innanzitutto vorrei ringraziare coloro che sono presenti questa notte, che per me, come immaginerete, è assolutamente speciale. Voglio rivolgermi a tutti i brasiliani e alle brasiliane, agli amici e alle amiche in tutto il paese. È un'immensa gioia essere qui oggi e aver ricevuto i voti di milioni di brasiliani e brasiliane. È la missione più importante della mia vita ed è la dimostrazione dei progressi democratici del paese. Per la prima volta una donna è presidente del Brasile. Il mio impegno è quindi proprio questo, onorare la fiducia ricevuta dalle donne brasiliane per far sì che un evento finora inedito diventi un fatto naturale che possa ripetersi anche nelle imprese, nelle istituzioni civili, in tutta la nostra società. Il mio impegno è costruire una società con eguali opportunità per uomini e donne, è un principio chiave della democrazia. Mi piacerebbe molto che oggi le ragazze più giovani dicessero che sì, una donna può farcela. Sono molto contenta perché oggi c'è una donna come Presidente della Repubblica, una donna eletta con il voto democratico degli elettori. Per questo un altro impegno della mia presidenza è di valorizzare la democrazia in tutte le sue dimensioni, così da dare ai brasiliani una serie di diritti chiave, dall'alimentazione ad una dimora degna, alla pace sociale. Dall'alimentazione, do emprego, da renda, da moradia digna e da paz social. Così, questo è il primo intervento della neopresidente brasiliana. Ci spostiamo all'Italia adesso per arrivare poi ai temi di casa nostra, con una notizia che anzi, prima una notizia che riguarda la finanziaria, poi una notizia che farà un po' arrabbiare chi è in ascolto. Allora, il vice ministro dell'economia Giuseppe Vegas, tra l'altro uno dei più forti candidati per ricoprire la carica di presidente della Consob, ha detto che le diverse commissioni parlamentari hanno avanzato emendamenti, spesso approvati in maniera bipartisan, cioè da maggioranza e opposizione, che se approvati avrebbero un impatto di 4,5 miliardi sulla prossima finanziaria. E vabbè. Invece la cosa che ci lascia molto molto sorpresi, lo diciamo con massimo rispetto verso le categorie interessate, quindi i proprietari di bar e i ristoranti, insomma nei primi 9 mesi dell'anno i prezzi di bar e ristoranti sono aumentati in Italia del doppio rispetto al rincaro che si è generato nel resto d'Europa. Non lo diciamo noi, non lo dicono i consumatori, lo dice la newsletter mensile dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi il governo. Più 2,1% l'aumento medio di prezzi e tariffe rispetto a una media europea dell'1,2%. Addirittura in Francia i prezzi dei ristoranti e dei bar sono scesi di uno 0,4%, in Germania sono in linea con la media europea, più 1,2%, in Spagna più 1,1%. E anche l'anno scorso i prezzi di ristoranti e bar erano aumentati in Italia più della media europea. Questo a fronte, e lo dico, ripeto, senza polemica, di un reddito medio dichiarato dai ristoratori di 13.500 euro lordi l'anno, come riportato anche dall'Agenzia delle Entrate, e dei baristi di 16.300 euro lordi l'anno. Allora, e poi la borsa di Singapore che lancia un'offerta per acquisire la borsa australiana. Io direi a questo punto ne parliamo anche dopo, perché adesso non ci stiamo più dentro. Vorrei invece cambiare tema e partire sì con una buona notizia, proprio perché è primo di novembre, proprio perché piove, proprio perché le autostrade sono allagate e quant'altro. La buona notizia riguarda una volta tanto l'immagine del nostro paese all'estero in un evento importantissimo come è stato l'Expo di Shanghai, che si è chiuso ieri. E allora, dicevamo l'Expo perché appunto si è chiuso ieri dopo 184 giorni l'Expo di Shanghai, e da oggi la bandiera del BIE, del Bureau International des Expositions, l'organismo che organizza e sovrintende gli Expo universali, sventola a Palazzo Marino, quindi nella sede del Comune di Milano. Lì infatti si terrà fra 5 anni, come ormai sanno tutti, il prossimo Expo. Già il sindaco di Milano ha detto che gli obiettivi dell'Expo italiano non saranno comparabili ai numeri enormi, del record dell'Expo di Shanghai. E che siano numeri da record è fuori discussione: 73 milioni di visitatori complessivi, va detto il 95% dei quali cinesi, e 190 paesi che hanno partecipato. I più poveri, quelli che non potevano pagarsi, diciamo, il padiglione, hanno avuto i finanziamenti da Pechino. I tempi di attesa in alcuni padiglioni hanno raggiunto le 5 ore. Pensate che sono state prodotte 190 tonnellate di spazzatura ogni giorno. Sulla spesa, come spesso accade in Cina, le cifre non sono chiarissime. Gli organizzatori dicono la spesa è stata di 4 miliardi e 200 milioni di dollari. In realtà, se si va a vedere il numero di infrastrutture costruite, si arriva tranquillamente a 60 miliardi di dollari di spese, di cui solo 45 per le infrastrutture. E poi il padiglione italiano. Noi eravamo invitati speciali, essendo il paese che poi, come è successo, raccoglie il testimone e avrebbe raccolto il testimone per il prossimo Expo. 36 milioni di euro il costo del nostro padiglione, 7 milioni e 300 mila visitatori, praticamente 40 mila al giorno, che lo hanno collocato, e questo ci fa più che piacere, tra i 5 padiglioni più visitati di tutto l'Expo. Un successo quindi. Vedo già alcuni messaggi: volete sapere quanti sono i visitatori attesi all'Expo di Milano? Si dice 20 milioni, erano 30 milioni stimati inizialmente, si viaggia adesso su attese di 20 milioni, quindi un quarto quasi rispetto a quelli che hanno visitato effettivamente l'Expo di Shanghai. Ma dicevo, successo del padiglione italiano con qualche polemica ripresa anche oggi su alcuni giornali. Allora, siamo in collegamento con Shanghai e lo ringraziamo anche per la tarda ora con il commissario generale del governo per l'Expo di Shanghai, Beniamino Quintieri. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, intanto complimenti, insomma, a tutta l'organizzazione, perché essere tra i primi 5 padiglioni più visitati, incluso quello cinese, non è cosa da poco. Ci dia subito un ritorno, un feedback, come dice chi ha studiato. Qual è il motivo, secondo lei, anche osservando giorno per giorno un padiglione che noi stessi abbiamo visitato a giugno, il motivo per cui l'Italia si è collocata al quinto posto? Cosa è piaciuto ai cinesi del padiglione italiano? Tanto non è che sia arrivato al quinto posto, credo che in termini di visitatori siamo al secondo, entro i primi cinque, ecco, poi sui numeri ci si può giocare, ma non è tanto quello il problema, anche perché alcuni padiglioni erano attrezzati a ospitare un numero minore di visitatori. Il problema generale è stato il gradimento non solo dei visitatori cinesi, ma dei media, delle televisioni, che qui, come sai, sono numerosissime, per cui avevamo tantissimi giornalisti ogni giorno, e che hanno eletto il padiglione come il più apprezzato. I motivi sono svariati, e intanto perché abbiamo una scelta strategica che ha pagato, quella di mostrare ai cinesi pochi filmati e molte cose da vedere e da toccare. E il successo di questo Expo a Shanghai è determinato proprio dall'entusiasmo della gente, che in Occidente ormai abbiamo perso tanto tempo. I visitatori hanno fatto file di ore per visitare i padiglioni, cosa che da noi sarebbe impensabile, e dopo file di ore, naturalmente, il poter vedere un oggetto, toccarlo, fotografarlo, come amano fare gli asiatici, è molto meglio che non avere filmati. E poi credo che hanno apprezzato gli allestimenti che abbiamo fatto. Abbiamo mostrato che l'Italia è un paese ricco di tantissime cose, forse. Ciò che ci hanno fatto notare molti italiani che sono venuti, che noi stessi spesso, presi dalle polemiche giornaliere, ci dimentichiamo quante cose belle ha il nostro paese e quali grandi potenzialità avremmo, e quindi ci ha fatto piacere soprattutto il consenso degli italiani, che come sa non è una cosa facile. Ecco, io, insomma, noi padiglione l'abbiamo visto, però lo voglio far dire a lei, era chiaro che l'idea di Italia che si tendeva a promuovere in quel padiglione era un'idea di Italia non legata, se mi passa il termine, ai soliti stereotipi, e quindi il bel paese, che pure c'era, ci mancherebbe, le bellezze naturali, artistiche, c'era anche la parte della manifattura, la parte produttiva, quindi la meccanica, l'aerospazio, la moda intesa appunto come industria, oltre che come livello quasi artistico. Sì, Esatto, beh, noi un po' gli stereotipi li abbiamo usati anche perché quelli che sono stereotipi nel mondo occidentale non lo sono nel mondo asiatico, dove la conoscenza del nostro paese e dell'Occidente in generale è più scarsa, considerando che non parliamo di un numero di visitatori acculturato limitato, parliamo di 40.000 visitatori al giorno, molti dei quali avevano scarsissime aperture verso il mondo. E poi specificamente abbiamo mostrato che l'Italia è qualcosa di più, certo c'è la moda, c'è il cibo, c'è la Ferrari, ma c'è anche un paese tecnologico, un paese che se ancora è tra i primi esportatori lo deve alla capacità di utilizzare quelle che sono le tradizioni artigianali, culturali e storiche, ma anche quelle di combinarle con la tecnologia, e questo credo che abbia pagato. Sì, anche perché è vero che quelli che sono appunto luoghi comuni non lo sono necessariamente in Asia, però è uscita un'immagine, ripeto, non l'abbiamo visto, di un paese forte nelle produzioni e in alcuni settori in particolar modo. Dopo il meteo, però, commissario Quintieri, vorrei capire un'altra cosa, cioè c'è chi ha lamentato sui giornali in questi giorni l'assenza di, a parte il Presidente della Repubblica Napolitano che è venuto lì a chiudere, In questi mesi la scarsità di politici, soprattutto esponenti del governo, ministri e Presidente del Consiglio, in una vetrina così importante, ha maggior ragione se poi siamo stati il secondo, terzo padiglione più visto. Vorrei capire, insomma, se lei si è sentito un po' così, un po' solo. 349-238-6666 per i vostri sms dopo il meteo. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, tra poco arriveremo a commentare questa borsa italiana, la peggiore, -1,24%, mentre le altre hanno chiuso sostanzialmente in positivo. Però vorrei tornare sul tema dell'Expo di Shanghai e del successo del padiglione italiano. Perché, scusatemi, se come raccontavamo adesso col commissario Quintieri, il successo è innegabile, e anche l'aver giocato sia sull'immagine tradizionale dell'Italia che su un'immagine anche tecnologica dell'Italia, con quasi 7 milioni e mezzo di visitatori cinesi, è una cosa che ci lascia basiti in senso positivo. C'è chi, come Gianantonio Stella nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, ha criticato il fatto che mentre altri paesi, la Francia con Sarkozy è rimasto molti giorni, Zapatero addirittura una settimana per fare incontri di carattere diplomatico e commerciale, e Angela Merkel, insomma tutti i paesi hanno mandato i capi di Stato e di Governo, 143, da noi è arrivato, commissario Quintieri, il Presidente della Repubblica, ci mancherebbe, lo scorso fine settimana per la chiusura dell'Expo, però scrive Stella, insomma nel nostro avamposto dell'orgoglio italiano dell'Estremo Oriente ci si è battuti per mesi quasi in solitudine, un po' come avviene per certi imprenditori quando vanno all'estero. Allora, lei l'ha sentita l'assenza del governo, perché è venuto il ministro Prestigiacomo all'inizio e poi è venuto, quando c'eravamo anche noi con la Presidente Confindustria, il ministro Sacconi, ma l'assenza del governo, insomma, l'ha sentita? Beh, un po' sì, certamente abbiamo avuto un enorme numero di imprenditori italiani che sono venuti, alcuni sono anche ritornati più volte, questo ci ha fatto piacere perché, come diceva lei prima, essendo un Expo che si è fatto in Cina, era importante valorizzare anche la parte industriale. La visita di Napolitano ha risollevato un po' il bilancio della presenza istituzionale non esaltante, un po' dipende anche da quella che è la situazione politica di oggi. Alcuni ministri hanno dovuto annullare all'ultimo per possibili crisi di governo, fiducia, finanziarie e cose varie. Cito per tutti il ministro Brunetta, con il quale avevo fatto un bellissimo programma, progetto chiamato l'Italia degli innovatori, che ha visto a Shanghai presenti tutte le imprese che avevano idee, progetti innovativi appena brevettati, ma che non è potuto essere presente, dopo quel giorno c'era la fiducia. Ecco, quindi è chiaro che la situazione politica in qualche modo ostacola una maggiore visibilità e presenza e attenzione verso l'estero, soprattutto verso un paese come la Cina, che oggi è strategico. Sì, c'è stato anche nel frattempo, ci sono state le dimissioni del ministro Scajola e l'assenza, il vuoto della presenza del ministro alle attività produttive, però insomma, le è mancato non avere Berlusconi? È inutile negare che avremmo sperato di averlo fino all'ultimo, considerando che poi diciamo anche Milano raccoglieva il testimone, quindi una maggiore attenzione non avrebbe guastato. Ripeto che la visita di Napolitano però ha trasmesso entusiasmo non solo a noi e agli italiani presenti, anche per le bellissime parole di elogio che ha fatto nei nostri confronti, ma anche che sia stato un successo la sua presenza in Cina per diciamo gli incontri istituzionali che ha fatto, e quindi direi che la chiusura è stata importante, quindi possiamo essere soddisfatti. Ecco, un'ultima cosa, i due rappresentanti non del governo in questo caso ma delle istituzioni che dovranno gestire l'Expo il prossimo Expo, quello di Milano, il presidente della regione Lombardia Formigoni e il sindaco di Milano Letizia Moratti, sono arrivati adesso per la chiusura, per la cerimonia di chiusura. Secondo lei anche in quel caso ci poteva essere una maggiore così interazione, presenza, anche per imparare qualcosa, visto che dobbiamo ospitarlo noi? Sì, la risposta è ovviamente sì. Anche qui in questi 6 mesi Milano ha vissuto varie vicissitudini. L'abbiamo raccontato. Siamo partiti con un amministratore delegato che io ricordo era in trasmissione con noi, con lei e con me il primo maggio. Lucio Stanca stava facendo le cose, avevamo un programma comune di attività che poi è stato fortemente ridimensionato. Dopodiché io credo che nell'ultimo mese ci siano stati segnali positivi, credo che quella di Sala sia stata un'ottima scelta, credo che sia la persona giusta al posto giusto, la questione dei terreni sia stata risolta, quindi mi è sembrato di cogliere la volontà di recuperare il tempo perduto e anche qui si sono visti un po' più di frequente, lo stesso Sala che pure essendo stato nominato da poco è venuto 2 volte nel giro di un mese. È vero quello che lei ricorda. Insomma, diciamo che c'è un po' in questo padiglione dell'Expo, se mi passa il termine, Presidente Quintieri, la metafora di quello che succede spesso alle nostre imprese italiane, che vanno da sole, fanno bene all'estero, conquistano quote di mercato, spesso un po' sole, spesso un po' abbandonate, spesso senza tutta questa pressione politica e aiuto politico che ricevono invece i loro concorrenti, per esempio francesi e tedeschi. Quindi l'avamposto che voi siete stati, avamposto virtuoso, abbiamo detto infatti che aprivamo con una bella notizia, poteva forse essere sfruttato un po' di più dalla nostra politica, ma c'erano altri temi molto più nazionali, molto più, alcuni dicono di bottega, vedo i messaggi, che ci fanno a volte perdere la visione complessiva. Grazie, complimenti comunque al commissario generale del governo per l'esposizione universale di Shanghai, Beniamino Quintieri. Grazie, buonasera. Allora, la buona notizia l'abbiamo data, ed è veramente una buona notizia perché, ripeto, vuol dire che insomma c'è un nome dell'Italia che regge perlomeno in Cina. Adesso ci occupiamo della borsa e di questa borsa di Milano, che soprattutto per i titoli bancari e un titolo su tutti assicurativo, Fondiera Assai, oggi ha perso l'1,24% contro una media europea di borse invariate, o comunque Parigi più 0,2%, Francoforte invariata, Londra più 0,4%, e allora borsa sia. Dicevamo meno 1,24 per via di Fondiera Assai, meno 5,1%, male anche Unicredit meno 3,60, CIR meno 2,40 e poi altri bancari, il Banco Popolare meno 2,30 come Unipol, UbiBank meno 2,20 come la Popolare di Milano, Intesa San Paolo meno 1,5. Chi va bene oggi? Tenaris più 1,1, Terna più 0,90, Pirelli più 0,80 come Ansaldo. STS in assoluto, il campionato pesa positivamente sulla Lazio, più 24% anche oggi, Xprivia più 10%, Borgosese più 7,4, Intech più 7,3 e Juventus più 4,5. Caso opposto, Fondiaria, dicevamo, la peggiore in assoluto sul risparmio, il meno 6,7, e la Premafin e quindi la finanziaria che controlla il gruppo Fondiera Sai e che è la cassaforte della famiglia Ligresti, meno 6,1%. Ce n'è di che iniziare il commento con i colleghi di Radio Core, dell'agenzia di stampa Radio Core, sulle 24 ore. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo proprio da dal Fondiera Sai. Insomma, cosa è successo nei giorni scorsi? L'ingresso, l'annuncio dell'ingresso di Groupama, del colosso assicurativo francese Groupama, dentro Premafin, con la possibilità di arrivare, una volta fatta l'aumento di capitale, fino a quasi il 17%, se vado a memoria, 17,3% della quota di Premafin. Questo ha entusiasmato la borsa, il titolo è salito moltissimo. Come mai oggi la settimana inizia con una doccia fredda? Perché, vabbè, in parte ci sono le prese di beneficio, sì, ma in parte ci si interroga se sul fatto di questa operazione, se sia davvero un'operazione fattibile. Nel weekend è emerso più di qualche dubbio sulla stampa che l'operazione potrebbe far configurare un cambio di controllo nella compagnia assicurativa, anzi nella holding, quindi in Premafin, e quindi il lancio di un'OPA su Premafin. Tuttavia in questo caso se dovesse arrivare al lancio di un'OPA su Premafin da parte, perché è riconosciuto che la famiglia Ligresti e Groupama agiscono in qualche modo insieme, a questo punto tutta l'operazione salterebbe, perché una delle condizioni poste da Groupama era proprio quella di non dover lanciare un'OPA. Allo stato attuale, diciamo, cioè l'offerta pubblica di acquisto, perché insomma l'ipotesi è, su cui tra l'altro la Consob appunto sta indagando, pur non avendo il presidente, lo so che non vi piace che lo ricordi, ma insomma io capisco che adesso il periodo va verso un periodo elettorale, ma è vero, il presidente della Consob con domani saranno 4 mesi che manca. Se questo è normale, va bene. Dicevo, la Consob sta indagando perché se dovesse essere dimostrato il famoso concerto, qualcuno se lo ricorda ai tempi dei furbetti del quartierino, l'ipotesi del concerto, cioè di quando ti metti d'accordo, che si sono mossi assieme, a quel punto la quota complessiva, Guido, sarebbe superiore al 30%, cioè sarebbe la quota che obbliga, che porta all'obbligo di lanciare un'offerta pubblica a tutti gli altri azionisti. Sì, a questo punto appunto Groupama avrebbe la facoltà di tirarsi indietro rispetto a questa operazione, certo. Per cui si sarebbe punto e a capo, ecco, per cui con tutti i problemi che Premafin e Fonsai hanno e sono emersi in questi mesi, che si ripresenterebbero da Santa capo. Giulia, ex Falk, insomma, mercato immobiliare su cui hanno pesantemente investiti. Però questo spiega Fondiaria e Premafin, ma perché va così male anche Unicredit, Banco Popolare, Unipol, Ubibanca, Popolare Milano? Ma diciamo che rispetto al resto d'Europa soprattutto. Sì, diciamo che comunque Milano va male soprattutto perché il settore finanziario a Milano pesa più che altrove, anche diciamo Madrid ha chiuso in calo di oltre un punto percentuale ed ha, come dire, la stessa rappresentazione delle società di Milano, in cui appunto i bancari pesano molto, per cui si sentono di più. È già da qualche giorno che i bancari non andavano bene, fra l'altro oggi è arrivata anche la notizia che una società Wall Street, la Ambac, che è il numero 2 fra gli assicuratori di bond, ha avviato le trattative con gli obbligazionisti per la ristrutturazione del debito, sostanzialmente ha chiesto la protezione dai creditori e appunto Wall Street sta perdendo oltre il 40%, una notizia che mostra come ci siano ancora delle tensioni sul mercato finanziario che ovviamente hanno pesato in una giornata come questa. Allora, dopo altri titoli, a partire dalla Fiat, visto che ci occuperemo di queste anticipazioni veramente pesanti sul mercato auto in Italia, però adesso c'è il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo di altri titoli al di là dei bancari, bene, Tenaris Eterna e Pirelli, Fiat, visto che ne parleremo, c'era chi poteva attendersi un calo più forte, in realtà meno 0,90%. Quindi. Sì, diciamo che appunto si attendono i dati ufficiali che saranno diffusi domani, però la Federazione Italiana dei Concessionari di Auto, Federauto, oggi è andata giù abbastanza pesante, ha detto che il lingotto nell'ultimo mese potrebbe aver registrato un crollo quasi delle immatricolazioni del quasi il 40% rispetto a un mercato che scende del 29% nel suo complesso. Vedremo. il titolo oggi diciamo che ha sostanzialmente tenuto, meno 0,90%, anche se il resto del settore auto in Europa è andato meglio, complice anche alcune promozioni da parte degli analisti, e domani alla prova dei fatti si verificherà se insomma le attese saranno confermate o meno. Mi fanno notare gli ascoltatori al 349-238-6666 che non abbiamo dato l'euro, avete ragione, chiedo Venia. 1,3880 sul dollaro, quindi siamo sempre vicino a 1,39, non a record. Dicevamo di altri titoli, oltre a quelli che abbiamo letto, negativa, e qui usciamo dal settore bancario, Geox meno 1,85%, Parmalat meno 1,80%, A2A meno 1,80%. E poi, oltre a Generali che perde l'1,70 con Mediobanca, negativa anche Prismian dell'1,6%, non ho dato il Monte dei Paschi, meno 1,4%, Autogrill in pregilo meno 1,3%, Atlantia meno 1,1% come Snam, Rete Gas e Lottomatica. Di Ansaldo STS abbiamo detto più 0,70%, Bulgari più 0,3%, Exor più 0,1%, ed Estima Electronics l'altro titolo positivo più 0,1%. Volete sapere di Eni ha chiuso sostanzialmente invariata, meno 0,2%. Grazie a Guido Marino, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo però in tema di borsa, ma in questo caso non di Borsa di Milano. Perché la vicenda va via via a rafforzarsi. La borsa di Singapore lo scorso 25 ottobre, qualcuno di voi lo ricorderanno, ha lanciato un'offerta per acquisire la borsa australiana, l'indice ASX per chi vuole saperlo, pagando 8 miliardi e 300 milioni di dollari, quasi 6 miliardi di euro. Cosa vuole fare Singapore? Vuole combattere. Singapore è con Hong Kong la borsa più importante di quella parte, diciamo Singapore, Hong Kong e Tokyo sono le tre borse dell'Asia di riferimento. Singapore vuole combattere la concorrenza di Hong Kong e di Tokyo e dei mercati alternativi, creando quindi la quarta piazza azionaria in Asia e l'ottava al mondo. E Singapore cosa offre? Offre 22 dollari australiani contanti, praticamente dà un premio a ogni azione della borsa di Sydney del 37%. Le implicazioni di una tale operazione le abbiamo chieste ad Alberto Forchielli, che è presidente dell'Osservatorio Asia. La locomotiva asiatica ormai ha iniziato a trainare i vagoni australiani, però nonostante i progressi recenti la borsa di Singapore non è mai riuscito a tenere il passo con quella di Hong Kong. Comunque il nuovo soggetto, fusione Singapore e Sydney, diventerà la quarta borsa in Asia e l'ottava al mondo. Insieme avranno circa 2.739 aziende, però non riusciranno comunque a essere più grande della borsa di Hong Kong, che nonostante abbia solamente 1.365 imprese, ha le grandi imprese cinesi quotate che le danno molto volume. Per Singapore è stata un po' il cogliere l'ultimo treno, un ultimo treno puntato sull'Australia che non riuscirà ad impattare il grande mercato borsistico nord asiatico fatto da Hong Kong, Shanghai, Shenzhen e Tokyo, però potrebbe riuscire ad attrarre quella parte di sud-est asiatico, l'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, le Filippine, che teme un super monopolio delle borse della grande Cina, incluso Corea e Giappone. E questo per quello che riguarda l'Asia. Adesso ci avviciniamo al GR e vi ricordo lo speciale che seguirà il GR fino alle 18.15 sulla situazione del traffico a partire dalla 4, ma non solo. Il programma, cioè Focus Economia, tornerà dalle 18.15 in poi. Avremo anche un accenno, vedo molti messaggi, alla sospensione del concorso per i 3.300 aspiranti notai per 200 posti e il commento su queste anticipazioni uscite un po' a sorpresa sui dati auto, che vedono da un lato andare male tutto il mercato italiano, ma sub meno 29%. Ma a ottobre, ma soprattutto il gruppo Fiat con un meno 40%. Giustamente fate notare che il mercato non ha reagito molto, non sempre riusciamo a capire cosa fa il mercato, mettiamola in maniera molto tranquilla. Confermo la, no, leggevo qui i messaggi che sembra che noi siamo interessati ad avere il presidente della Consob. Diciamo che è normale in qualunque paese che vi sia il presidente dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, mettiamola così. Confermo invece il dato dell'osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, molti di voi ci hanno scritto, sul rincaro dei prezzi nella ristorazione e nei bar nei primi 9 mesi del 2010, il doppio rispetto alla media europea, il rincaro dei prezzi di ristoranti e bar più 2,1 contro la media europea dell'1,2, ma ripeto, in Francia addirittura c'è stato un calo dello 0,4, in Germania dell'1,2, ed è un rincaro che è nettamente superiore anche all'inflazione. Comunque adesso c'è il GR, poi dopo lo speciale sul traffico gli altri temi di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, riprende Focus Economia. Come avevamo anticipato, c'è stato lo speciale di Radio 24 sulla situazione del traffico. Noi parliamo di auto, ma in questo caso non di auto in colonnate, soprattutto sulla 4, ma del dato che uscirà ufficialmente domani, ma che oggi è già stato anticipato da Federauto e quindi dall'associazione che riunisce i concessionari di auto sulle immatricolazioni auto nel mese di ottobre. Un dato pesante a livello complessivo, pesantissimo se confermato, ma insomma pochi sono i dubbi per il gruppo Fiat. 349-238-6666 per i vostri sms. Meno 29% ad ottobre le immatricolazioni auto, e questo significa poi ripercussioni anche per tutto l'indotto, milioni tra concessionari, costruttori e indotto in senso stretto, quindi chi fornisce le componenti al settore auto, pesanti ripercussioni. Tra l'altro praticamente è difficile non immaginare, lo dicono gli stessi concessionari di auto, che qualche forzatura vi sia stato con qualche chilometro zero vendita ai noleggi, però insomma meno 29%, ma soprattutto il Fiat che fa quasi il meno 40%. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, vi hanno anticipato quelli di Federauto, perché il dato ufficiale esce domani, il vostro dato ufficiale, no? Alle 18. Però a questo punto, insomma, la frittata è fatta, ma la cosa più importante è la sostanza. Allora, ve lo attendevate il meno 29, ma soprattutto il meno 40 di Fiat? Assolutamente sì. Intanto il dato ufficiale non è il nostro, ma è quello del Ministero, certo, dei Trasporti, e poi c'è quello della nostra inchiesta. C'è questa anticipazione, io non sono in grado di dire se corrisponde esattamente alla realtà o no, ma comunque è assolutamente attendibile, anche perché il dato era atteso. Il mercato dell'auto sta andando molto male da aprile, da quando sono finiti gli incentivi alla rottamazione. E in questo mese il confronto si fa con un ottobre invece che era l'anno scorso molto molto buono, perché gli incentivi erano proprio nel pieno, avevano cominciato a funzionare dopo una certa viscosità all'inizio. E fra l'altro c'è anche un altro elemento che incide, ed è che le case automobilistiche hanno deciso in questo ottobre di fare meno chilometri zero che in passato. Cioè la situazione è molto difficile, i chilometri zero sostanzialmente mascherano la situazione, vengono fatti essenzialmente per difendere le quote di mercato, però costano le case, costano ai concessionari, e le case, sì, hanno deciso di farne meno. Un'ultima domanda però, Gianprimo Quagliano, perché Fiat, lo so che è una tendenza che purtroppo registriamo da alcuni mesi, ma insomma, ma perché Fiat chiude con un 10% in peggio, diciamo? Questo non è successo solo in ottobre, anche nei mesi precedenti Fiat perdeva di più, ma la spiegazione è che Fiat aveva avuto grandi benefici dagli incentivi, perché gli incentivi erano incentivi ecologici e quindi favorivano soprattutto i modelli ecologici, e Fiat nella sua gamma ha molti modelli ecologici, soprattutto quelli a metano, ma anche altre auto, quindi ha tratto grandi benefici dagli incentivi. Ora paga una parte di quello e che... E forse anche l'assenza di qualche modello nuovo, possiamo dirlo. Certamente, eh? C'è anche l'assenza di modelli nuovi, ma questa è una politica che Fiat sta facendo perché ritiene di non giocare le sue carte migliori, che ha probabilmente nel cassetto, in una situazione di mercato così difficile. Mm. Altri seguono una politica diversa, questa è la politica di Fiat. Si può discuterne, ma questo è l'orientamento. Va bene, chiaro, domani avremo poi il dato ufficiale, lo racconteremo, ma mi sembra che insomma anche tu sia d'accordo che non si andrà molto distanti. Grazie al direttore Centro Studi Promotor Gian Primo Quagliano. Grazie a te Sebastiano, a domani. E volete sapere giustamente della borsa, Fiat ha perso lo 0,90% ma 12 euro per azione, quindi poco mosso il titolo, in una borsa che ha perso l'1,24%, male soprattutto Fondiaria Assai, meno 5,1% e Unicredit meno 3,6%, dicevo ha ceduto ma meno della media. E allora l'ultimo tema di questa puntata, il concorso dei notai. Ci siamo occupati molte volte degli ordini professionali, delle liberalizzazioni e di quant'altro. Sapete, insomma, è noto il nostro scetticismo rispetto a certe rigidità che gli ordini professionali portano nel mondo delle professioni e quindi anche nell'accesso a queste professioni. Insomma, è veramente allucinante quello che è successo a Roma. L'avete letto, ma insomma lo ricordiamo, perché che cosa è capitato? È successo che a un concorso per 200 posti di notaio si sono presentati 3.300 candidati e fin lì insomma nulla di strano, 3.300 aspiranti. Solo che l'esame è stato sospeso con una bagarre incredibile quando si è scoperto che il testo della prova scritta era, la traccia dettata era identico a quello che alcuni candidati a Roma avevano fatto qualche giorno prima. La nostra Deborah Rosciani ha intervistato Gabriele Noto, che è consigliere nazionale e portavoce del notariato, nonché notaio a Verona. Va chiarito il perimetro qua sul quale va mantenuto l'oggetto della discussione. Il perimetro è l'errore di una commissione. Non dire che non sono in crisi le regole del concorso, è in crisi purtroppo un errore di una commissione che può essere stato anche grave, può essere stato anche ripetuto, può essere stato al limite dell'incredibile, però di errore umano si tratta. Cioè, quello che voglio dire io non è che perché oggi precipita un aereo domani cancelliamo un'aviazione, anche se il pilota di turno sia stato uno decisamente non adeguato. Notaio, qual è l'errore a cui lei fa riferimento? Il fatto di aver utilizzato una traccia già usata in una precedente esame? Per me quella cosa lì è una cosa veramente assurda, incredibile, perché la traccia deve essere originale. Va detto anche che in passato è successo qualche altra volta che si sia preso a base delle tracce che circolavano, perché poi insomma il mondo del diritto è quello, però in questo caso pare che la traccia, anzi senza pare, aveva delle assonanze quasi complete. E insomma, in un mondo dove ormai internet è la fonte di ogni nozione, credo che questa cosa andasse calcolata. Poi va detta anche una cosa, che alcuni candidati probabilmente ci hanno anche un po' marciato, perché probabilmente non hanno fatto bene le prime due prove, quindi avevano tutto l'interesse che la terza prova venisse annullata. Quindi in sostanza lei crede alla buona fede della commissione che ha utilizzato una traccia che magari voleva intendere simile ad una precedente e non ad un'iniziativa che volesse in qualche maniera aiutare qualche candidato? Il principio che esprime il Consiglio Nazionale del Notariato è questo? Guardi che se io voglio aiutare qualcuno non la faccio mica così, è veramente fatta troppo brutta per essere vera questa cosa, nel senso che se io voglio aiutare qualcuno faccio in modo che il mio messaggio, ammesso che sia così, arrivi in via confidenziale riservato a poche persone. Cioè capisce che c'è un elemento che in radice esclude la malafede. Semmai aumenta la dose di dabbenaggine. Proprio per far salvo il principio che lei diceva, cioè il fatto che nessuno ha voluto agire in malafede, allora non crede che sarebbe proprio un atto totale di trasparenza quello di consentire la ripetizione integrale del concorso? Ma io credo che dovrà essere consentita la ripetizione integrale del concorso. Sarei sorpreso se venisse utilizzato la possibilità di fare solo la terza prova. Vabbè, comunque, nonostante il tentativo diplomatico, sorpreso anche il consigliere nazionale dell'ONU. Insomma, la traccia deve essere originale, l'avevano fatta qualche giorno prima. Adesso c'è la zanzara, la mia idea di togliere le categorie è sbagliata. No, noi siamo molto critici da sempre sugli ordini professionali quando limitano, diciamo, la concorrenza interna e l'accesso alle professioni, ma ormai non facciamo in tempo a parlarne. Possiamo invece sapere da Giuseppe Cruciani quali saranno i temi di questa puntata della zanzara. Me lo chiedi pure, rubi, bunga bunga, insomma, ormai è un tormentone da giorni e proseguiremo su questo tormentone. E la domanda era quasi retorica. Grazie Giuseppe Cruciani. Adesso da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. In bocca al lupo chi è in viaggio, soprattutto sulla 4. Radio 24. La passione si sente.